sei pazzo, pazzo davvero. È una pazzia di impostazione che fai la lingua da trasgressivo, ma in promozione. Guarda nello specchio, t'hanno prezzato come fossi un prodotto essere contro non è una sfilata di moda. Per cambiare il mondo non basta l'autotune. Su questo lato stretto